No, no, Salvo, yo creo que no. Con esa panza, yo creo que tú no puedes bailar. Dago, a così mi sta finendo. Tu pensi che non posso ballare un latino? Ah, sì? Ora ti faccio vedere chi come non questa panza. Estoy muy curioso. A ver. Batti le mani una volta. Batte la mano dos veces. Batti le mani una volta. Batte la mano dos veces. Annagamento di spalle. Avanza, avandare. Muovevo un si fa tanto. Usenti stupendi me. Moviendo bien la cintura. Haciendo una macarena. Alza la mano conmigo y grita. Sí, sí, sí. Pensavi che facevo il nome melodico. Invece come ringhe faccio panico. Un salto avanti.